Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Subito la mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore, oppure robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, chi è malato di cancro, usiamo questa parola esattamente per quello che è, quindi chi ha problemi serissimi nella vita di salute, spesso è vittima anche di abusi sul luogo di lavoro. Abusi a volte volontari e a volte, credo nella maggior parte dei casi, anzi assolutamente involontari, vuoi per la farraginosità delle leggi, vuoi per la complicazione che poi le stesse producono, vuoi per lo stato depressivo in cui molto spesso cadono i malati, insomma per una marea di motivi di abusi sicuramente soffrono queste persone che già soffrono, scusate il gioco di parole. E per parlare di questo noi abbiamo pensato di dedicare un paio di puntate al tema con alcuni ospiti che sono sicuramente variegati nella loro rappresentatività e che quindi ci condurranno ciascuno in un fetta di mondo particolare. Ma direi di iniziare subito con la radioascoltatrice Lucia Balboni. Buongiorno Balboni. Buongiorno a lei. Allora, io dico soltanto pochissime cose, non dico la sua età perché delle donne non bisogna mai chiedere, dire l'età, ma dirò che lei è stata colpita dal cancro nel 2007. A questo punto inizia un calvario sicuramente di natura sanitaria ma anche di natura lavorativa. Che cosa le succede, Balboni? Allora, succede che io sono colpita dal, come lei ha detto, dal cancro, e quindi essendo colpita dal cancro devo subire naturalmente vari interventi. Ho subito il primo intervento e non ero più idonea quindi al lavoro, e quindi mi sono messa in malattia. La malattia che è contemplata nel mio contratto è di 180 giorni nell'anno solare. Se tu in questi 180 giorni ce la fai a guarire, bene, altrimenti, detto in parole povere, t'attacchi poi al tram, perché non ne hai più diritto. Io non sono una statale, io lavoro nel privato, e indipendentemente che io abbia anche il certificato che attesti la grave patologia e che quindi dovevo subire chemioterapia e quant'altro, non potevo decurtare i giorni di ricovero dal mio comporto. Questo io trovo che sia una cosa molto ingiusta, perché visto e considerato che la nostra Costituzione all'articolo 32 e 38 tutela tutti gli ammalati allo stesso modo, se poi nella realtà ci si avvale della contrattazione, quindi non è vero che la Costituzione ci tuteli tutti allo stesso modo. Ecco. Quindi io mi devo prendere dell'aspettativa, naturalmente mi è garantita l'aspettativa, però perdo sia i contributi e lo stipendio. Ecco, io la interromperei. Dipenso per la mia famiglia e poi, cioè, mi sento inutile. Perché trattare così gli ammalati oncologici? Dovremmo essere tutti uguali. Ecco, io la interrompo un attimo, signora Balboni, perché, come avrete modo di sentire anche voi, cari radioascoltatori, la signora Balboni è una combattente lavoratrice che viene da un posto meraviglioso in provincia di Ferrara, Porto Garibaldi. Ma le chiedo questo, Balboni, ma lei ha interloquito con la sua azienda? Che tipo di rapporto ha con la sua impresa? Beh, io con la mia impresa, devo dire che la mia impresa, più che un'impresa, è una famiglia. Sì. Non è un'impresa, quindi tutto quello che loro hanno potuto fare in base alla contrattazione l'hanno sempre fatto. Io non ho niente da dire sulla mia impresa. Io sono una di quelle ammalate oncologiche che ringrazio Dio di poter lavorare dove lavoro. Assolutamente. Ecco, ricordo anche questo, che la signora Balboni ha spedito anche diverse lettere rappresentando la situazione, sicuramente non soltanto per se stessa, ma per coloro i quali e le quali si trovano nella stessa condizione, a moltissime istituzioni. L'ultima è stata scritta il 26 novembre del 2008, quindi pochi giorni fa, anche al governo e ai ministri interessati ed eventualmente da coinvolgere. Balboni ha avuto risposte? Per il momento ancora no. Ecco, però ovviamente questa, la mia trasmissione, Radio 24, è anche un modo per raggiungere gli interlocutori. Sicuramente tra gli interlocutori che lei ha ascoltato e che le hanno dato delle attenzioni ci sono senz'altro la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'Associazione Italiana dei Malati di Cancro, che coinvolgeremo in queste puntate. Ma prima di giungere a loro, io coinvolgerei il professor Michele Tiraboschi, che è ordinario di diritto del lavoro, è anche fondista del Sole 24 Ore ed è, come dire, il direttore, l'anima della Fondazione Marco Biagi, che non a caso è stata tra i destinatari della lettera della signora Balboni. Buongiorno Tiraboschi. Buongiorno. Allora, io le chiedo intanto di commentare quello che ha sentito. Beh, incredibile, un malato di una malattia così grave deve fare una battaglia per rimanere in vita, per aggrapparsi alla vita, poi deve fare un'altra battaglia giuridica, legale, perché spesso non conosce i suoi diritti, perché i diritti a volte ci sono, in parte sono frammentati, sono negati, non sono riconosciuti, si rinvia i contratti collettivi sono reticenti, non si occupano del problema. E quindi è chiaro che una persona che deve occuparsi prioritariamente di ben altro si trova invece una grandissima difficoltà, che alimenta poi una percezione psicologica negativa, una depressione, il sentirsi soli, abbandonati, spesso poi in ambienti di lavoro che non sono negativi, ma proprio non sono attrezzati per gestire problematiche così delicate. E quindi la fortuna della signora Balboni di stare, come lei stessa ci ha descritto, in un ambiente familiare. Però le chiedo questo, professor Tiraboschi, cioè è corretta l'interpretazione che è stata data dall'impresa, vale a dire la possibilità di usufruire di 180 giorni nell'anno solare, dopodiché non c'è più nulla. Cioè, è vero che non c'è più nulla o c'è qualcos'altro? Giuridicamente chiaramente occorre distinguere a seconda delle diverse situazioni, perché occorre capire quant'è il grado di capacità al lavoro residua che ha la signora Balboni e tante altre persone che sono malate, se certo possono ancora lavorare parzialmente oppure no. Se potessero lavorare parzialmente, c'è oggi un diritto soggettivo che può essere subito azionato, che è previsto dalla legge Biagi, che dà il diritto al tempo parziale, quindi con orari articolati, modulati, flessibili in funzione delle esigenze del lavoratore, che può poi chiedere appunto l'accesso a degli orari compatibili con le cure e le terapie salvavita. Però spesso il malato non può utilizzare neppure un tempo parziale, perché probabilmente la malattia è più grave e seria. Qui entrano in gioco i contratti collettivi, che prevedono in maniera molto secca, neutra, senza tenere in considerazione queste peculiarità, appunto dei periodi di congedo, cioè dei periodi in cui il lavoratore ha diritto ad assentarsi, ha diritto alla retribuzione, non può essere licenziato. Però questi congedi sono pensati per delle malattie ordinarie, non per delle malattie, delle patologie così gravi che si protraggono a volte sfortunatamente anche per tempo. Anni. Esatto. Certo. Qui purtroppo il problema è che i nostri contratti collettivi, chi li firma, chi li fa, non hanno mai pensato a questo problema. Quindi mi sembra veramente, però mi lasci usare il termine ridicolo, perché voglio dire, le malattie oncologiche non le abbiamo scoperte ieri, no? Assolutamente, il problema è che fino a ieri io credo che le persone si vergognassero nel dire di essere malati di tumore, tenevano nascoste queste cose, le vivevano come forse un senso di colpa, come una marginalità da accettare. Oggi invece c'è maggiore consapevolezza, abbiamo delle persone battagliere e giustamente combattive come la signora Balboni, che non hanno più problemi a presentarsi e a raccontare situazioni. La propria storia. Però lei tenga presente che dei tantissimi contratti collettivi che esistono, innanzitutto sono soprattutto quelli del settore pubblico che danno qualche garanzia in più in termini di congedo, quindi di lunghezza del congedo. Io nel settore privato c'è solo un contratto significativo, che è quello delle attività ferroviarie, che dice che il congedo è di 12 mesi, ma diventano 30 in caso di patologie oncologiche. In tutti gli altri contratti collettivi siamo fra i 3, 6 mesi, 10 mesi di congedo. Quindi c'è davvero una arretratezza, diciamo così, dal punto di vista delle relazioni sindacali e anche della capacità di stare al passo con i tempi. Un'ultima domanda secca, professor Tiraboschi, e poi torniamo sul tema domani. Ha la possibilità di chiedere quindi il part-time la signora Balboni? Ha il diritto di chiedere il part-time. Bene. Occorre solo capire se la signora Balboni ha una capacità lavorativa residua che le consente in parte di lavorare e in parte di dedicarsi alla cura di se stessa e alle terapie salvavita e alle altre visite mediche che deve fare. Assolutamente. Allora, nel ringraziare il professor Michele Tiraboschi, io ringrazio anche la nostra radioascoltatrice Lucia Balboni, in regia Giorgio Mattei, in studio Laura Faggina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Parleremo ancora dei diritti dei lavoratori che si trovano, come la signora Balboni, a dover lottare quotidianamente con le malattie oncologiche. Una buona giornata a tutti.